Beh, l'idea ci è venuta osservando un progetto molto simile a questo, che riguardava le acque basse e alte nella laguna di Venezia. E allora, vivendo vicino al bacino idrico del Po, ci siamo chiesti perché non fare qualcosa di questo tipo sul Po, che è una realtà che ci riguarda molto da vicino. Allora abbiamo contattato il Politecnico di Milano, in particolar modo il professore Di Emilio, che ringraziamo avendolo Qui già citato. istituzionale parte, cioè già con i ringrazi, è bravissimo il Impara, ragazzo, impara. infatti. Vai, vai. Politecnico di Milano ed è iniziata in questo momento quella che sarà una lunga collaborazione col Politecnico, per cui già dai primi incontri abbiamo iniziato nella ricerca appunto di un software che ci permettesse perlomeno di avere qualche dato su cui partire con il nostro progetto e quindi iniziare a pensare, diciamo, cosa simulare, in che modo simulare. Ecco, ma a cosa può servire veramente? Perché è stato, dire, un progettino di scuola, ma i dati sono veri, quelli del fiume, anche il software, insomma, gira sui computer. Sì, i dati sono veri, infatti li abbiamo richiesti all'autorità di bacino del Po, che ce li ha gentilmente concessi. Ci sono stati forniti i dati della topografia della zona del territorio che noi volevamo studiare, in particolare tra Spessa e Piacenza, che sono circa 40 km di fiume, e in particolare le portate rilevate dagli idrometri presenti appunto in queste due località. Il nostro codice si basa appunto su un codice open source, quindi non abbiamo scritto da zero questo codice, ma ci siamo solo limitati comunque a riadattarlo, un lavoro che comunque in realtà è stato comunque di una mole abbastanza importante. Infatti, prima di tutto abbiamo dovuto mettere a posto i dati sulla topografia, quindi tutto il territorio, e in seguito scrivere e modificare numerose parti del codice.